L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta come sempre con il nostro appuntamento dedicato all'Europa, l'Europa calda, l'Europa che ci piace, l'Europa delle possibilità e delle opportunità. L'attualità politica ed economica dell'Europa viene raccontata giorno per giorno da Radio 24 nei suoi tanti appuntamenti. Noi il sabato cerchiamo di proporvi anche altri punti di vista, di farvi ascoltare anche le voci dei protagonisti, di chi in questa Europa ci crede per davvero. Le coordinate per seguirci anche sulle nostre piazze virtuali: chiocciola Euronet Plus R24 oppure il mio account personale Federico Taddia. Euronetplus.eu invece è il portale del network al quale apparteniamo. Tante lingue diverse, tante voci, tante radio per raccontare un percorso comune chiamato Europa. Come sempre tanti viaggi, come sempre tante voci. Oggi partiamo da una domanda: ma come sarebbe la nostra vita oggi senza Europa? Without EU, questo è il nome di una campagna ideata da due amiche con una passione comune che è quella dell'Europa. Hanno deciso di buttarsi sui social network, su Twitter, su Facebook in particolare, chiedendosi appunto come sarebbe la nostra quotidianità se non ci fosse l'Unione Europea. Ne è uscita una campagna molto bella, molto diretta, senza tanti fronzoli, ma che va al sodo della questione. Ne parliamo con una delle ideatrici. Diamo il benvenuto a Chiara Poletti. Ciao Chiara. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Che appunto insieme a Marzia Calvi, che insomma l'idea è stata tua, poi è salita con te in questo viaggio europeo, hai deciso di così una sorta di fantasy, di svegliarsi una mattina, cioè oggi, senza Europa. Ecco, come cambierebbero le cose? Da dove nasce tutto ciò? Allora, l'idea nasce un po' dalla questione che ci si poneva, sai, durante la campagna elettorale del Parlamento europeo: qual è il ruolo dell'Europa nella nostra vita? Sì. E soprattutto, in particolare, da una questione di fondo. Noi giovani che siamo cresciuti con l'Europa e con l'Unione Europea e che godiamo di più dei vantaggi dell'Europa, non ci rendiamo conto, non avendoci mai vissuto, di cosa vorrebbe dire l'Italia senza Europa, e votiamo anti-europeo. E quindi da lì, insieme a Marzia, abbiamo detto: ma perché invece non informare i giovani sui social di quali sono i vantaggi dell'Europa nella vita quotidiana? Perché l'Europa ovviamente è ovunque, è nel televisore che compriamo e che abbiamo a casa, che è certificato CE, è nella mela o nella pesca che mangiamo, è nella tutela dei lavoratori, insomma è un po' ovunque, nell'ambiente, nella tutela dell'ambiente, non è solo nella moneta unica con la quale andiamo a fare i nostri acquisti ogni giorno. Mm-hmm. E quindi appunto hai iniziato a disegnare questa Italia, esatto, senza Europa, e con alcuni slogan. Vuoi farci qualche esempio? Ma allora, il primo slogan che mi è venuto in mente, essendo un po' un'assidua viaggiatrice, è quello: la coda alla frontiera, viaggio romantico a Parigi, coda di 8 ore romanticissima alla dogana per aspettare di salire in aeroporto. Certo. Oppure, esatto, tutte queste cose qui. Oppure mangiare una mela che contiene dei pesticidi perché non sono stati fatti i controlli europei. Un bambino che gioca con un giocattolo che però non è conforme CE, quindi contiene delle piccole parti che sono molto dannose per, appunto, per il bambino, se le mette nelle orecchie, per il naso, insomma, tutte queste cose qua. Noi non ce ne rendiamo conto, ma in realtà l'Europa aiuta, certo, ed è ovunque. Ce n'è una che mi ha fatto molto sorridere, anche perché è assolutamente attuale, vista la direttiva sul roaming di pochi giorni fa: chiamate all'estero, finire il credito di 40.000 lire dopo una chiamata di un minuto. Ecco, pensaci se rivorresti tornare lì. E adesso state un po' virando, nel senso che c'è uno step successivo che in parte è quello legato al semestre europeo a guida italiana. Esatto, sì, la prima fase era un po' più in vista delle elezioni e questa fase più, dato che c'è il semestre europeo, il semestre europeo di presidenza, allora diciamo, ma che cos'è il semestre? A che cosa serve? Quali sono i temi più discussi e di cui si discuterà tra l'altro anche a Milano, non solamente a Bruxelles, a Strasburgo e a Francoforte? E quali sono anche le decisioni che vengono prese dal Parlamento europeo e dal Consiglio che hanno ripercussioni in Europa? Penso, non so, alla direttiva sulle sigarette, Mare Nostrum, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è tutto un mondo che cerchiamo di inglobare in queste immagini che diffondiamo sui social. Esatto, Twitter e Facebook, il megafono di questa campagna, vuoi dirci quali sono le pagine ufficiali? Sì, allora, Weaver Without You, scritto però EU con European, come European Union, non come tu pronome personale, sia su Facebook che su Twitter. Perfetto, link che abbiamo già messo sulle nostre pagine in Facebook e in Twitter. E un'ultima domanda, Chiara, ma chi te lo fa fare di spendere tempo ed energie, ore della tua giornata per far affezionare all'Europa? Il fatto di aver vissuto in Europa, di aver lavorato un po' per pochi mesi nelle istituzioni europee, insomma, mi ha fatto un po' sentire in colpa, perché io e Marzia abbiamo viaggiato, abbiamo studiato e sappiamo quali sono i vantaggi dell'Europa nella vita quotidiana, e quindi vogliamo informare anche chi non se ne rende conto dell'importanza dell'essere europei. Una campagna che credo valga mille volte di più di tante campagne istituzionali. Avete trovato veramente il nocciolo della questione. Grazie davvero e complimenti. Ciao. Grazie, ciao Chiara. Federico, ciao ciao. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Cooperazione industriale Giappone-Unione Europea, una borsa di studio. Il Centro per la Cooperazione Industriale Unione Europea-Giappone offre una borsa di studio della durata di 6 mesi per supportare la ricerca e l'analisi su questioni economiche ed industriali legate ai rapporti tra Unione Europea e Giappone. La borsa fa parte del Minerva European Union Japan Fellowship e, oltre alla ricerca, il borsista si impegnerà nel supportare le attività analitiche quotidiane del Centro per la Cooperazione, tra cui il monitoraggio dei media, momenti informativi e divulgativi e la redazione di report. Possono partecipare analisti di mercato, accademici, scienziati, impiegati statali o professionisti con un interesse per gli affari legati alla cooperazione tra Giappone e Unione Europea. La borsa copre 6 mesi con 1.700 euro al mese più copertura di viaggio, alloggio e spese quotidiane. Trovate maggiori informazioni sul sito eu-japan.eu cercando Minerva Fellowship. Per fare domanda c'è tempo fino al 15 luglio. L'altra Europa. Oggi a Venezia, il Digital Venice, il meeting di alto livello organizzato dalla Presidenza del Consiglio Italiano con il supporto della Commissione Europea, nella fattispecie del Direttorato Generale Connect. Questa settimana di eventi dove hanno partecipato i principali manager delle compagnie di comunicazione e tecnologie europee, le istituzioni, tante teste pensanti, tanti giovani, anche un mix, una contaminazione di neuroni e di sinapsi per pensare insieme, per riscrivere insieme, per stimolare insieme quella che sarà l'agenda digitale europea. Vogliamo capirci qualcosa di più, perché al di là delle parole, anche qui ci siamo, l'Europa che entra nella nostra quotidianità, cambiandoci la vita, trovando, proponendo posti di lavoro. Tutto questo lo facciamo con Roberto Viola, vice direttore generale della Direzione Generale Connect Reti, Contenuti e Tecnologia della Commissione Europea. Buongiorno Roberto, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Giornate intense, vero? Quelle giornate intense, molto belle, molto affascinanti, in una cornice bellissima come quella di Venezia. Allora, adesso sono varie le tematiche che vorrei affrontare, anche per cercare di rendere comprensibile ai nostri ascoltatori, magari non addetti ai lavori, l'importanza di queste giornate. Cerchiamo intanto di definire che cos'è l'agenda digitale europea. Ma l'agenda digitale europea è una serie di compiti a casa per la Commissione europea, per i governi, per le amministrazioni, per le imprese, per cambiare meglio, perché ci stiamo incamminando verso una rivoluzione totale delle nostre vite, del modo come lavoriamo, come interagiamo con le altre persone, e questa rivoluzione è guidata dal digitale, da internet. E quindi bisogna saper cambiare e noi speriamo cambiare per migliorare e avere più posti di lavoro, una qualità della vita migliore, per esempio una sanità migliore. Certo, si sente parlare di agenda digitale italiana, poi ovviamente i confini per fortuna non ci sono più, bisogna volare alto, bisogna pensare ormai a livello europeo, quindi questa agenda digitale europea dovrebbe dare un po' le coordinate, ma non solo, perché si parla credo anche di atti pratici, azioni concrete, si parla di leggi, si parla di infrastrutture, si parla di aggiornamenti, insomma veramente tante tante direzioni. Roberto, lei avete partecipato come Commissione Europea a dei workshop in particolare, quali sono stati i temi più caldi che avete affrontato? I temi più caldi sono stati quelli della crescita economica, del lavoro, del miglioramento della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini, e quello dei contenuti, dei nuovi contenuti digitali. Questi sono stati i temi che ovviamente toccano un po' tutti gli aspetti della nostra vita. E quello che è venuto fuori è che effettivamente c'è una grande voglia di cambiare, una grande voglia di digitale, e questo però ovviamente deve essere, come diceva lei, adesso fatto seguire da azioni concrete. E Roberto, anche in questo campo l'Europa ha velocità diverse, molto diverse, nel senso ci sono nette differenze tra una nazione e l'altra? L'Europa, come in altri campi della vita economica, effettivamente presenta delle differenze. In particolare ci sono paesi molto avanzati per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi, come per esempio i paesi scandinavi. Ci sono paesi che sono un po' più in affanno, questi li troviamo nell'Europa del Sud, in particolare Spagna, Italia e Grecia. E qual è la mancanza? Una mancanza culturale, una mancanza legata alle infrastrutture, una pigrizia di fondo, è un'inerzia? Secondo lei qual è il nocciolo? C'è purtroppo un effetto che si combina, la mancanza di infrastrutture. Per esempio l'Italia è indietro per quanto riguarda le infrastrutture a larga banda. C'è un aspetto culturale, il numero di persone che utilizzano internet, la media europea è circa intorno all'80%, in Italia è il 70%, ci sono diverse ragioni, anche il fatto che l'età media della popolazione italiana è più alta, però non c'è una questione culturale, i giovani sono interessatissimi, hanno voglia di apprendere il digitale anche a scuola, hanno voglia di apprendere come si programma per esempio un computer. Quindi c'è una nuova generazione che avanza e bisogna dare risposta a questa generazione. E proprio a tal riguardo, a fianco diciamo del programma istituzionale, c'è stato anche Restart Europe, il contributo di 163 giovani start-up italiani che si sono presentati a Venezia con idee concrete. Credo che anche tu abbia partecipato all'evento per raccogliere, adesso non ho capito. Com'è stata questa full immersion nella creatività? Bellissima, ci sono tante aziende fatte da 5-10 persone, tutte giovani, che hanno idee, alle volte queste idee diventano grandi idee e travalicano i confini nazionali. La imprenditoria giovanile in questo settore è una delle cose più importanti. La Commissione europea sta mettendo in piedi tutta una serie di azioni per supportare le start-up, l'imprenditoria giovanile, perché noi crediamo che le idee dei giovani, saper rischiare, sapere anche accettare a volte il fallimento, è come si compete nel mondo digitale. Quindi insomma non spaventiamoci dal digitale, anzi è lì, cioè va conosciuto, va affrontato, va fatto nostro, va visto come una grande opportunità. Nascerà una carta di Venezia da queste giornate di lavoro. Roberto, un punto di arrivo o un punto di partenza? È certamente un punto di partenza importante. È significativo che la presidenza italiana ha voluto iniziare il semestre europeo con un evento come questo, un evento digitale, e ha proposto ai partecipanti una carta, una dichiarazione di Venezia. Adesso verrà messa a punto con i contributi di tutti, con quello che è stato detto durante la settimana, e sono certo che la presidenza italiana vorrà presentarla agli altri capi di Stato, alle altre forze che lavorano in Europa in questo settore, perché questo, come hai detto te, è un punto di partenza. digitalvenice.eu, il sito ufficiale, ec.europa.eu, dgs/connect invece è il sito della Direzione Generale Connect. Ringraziamo Roberto Viola, vice direttore generale, per essere stato qua con noi. Buon lavoro, perché saranno mesi tosti, per fortuna, anche per voi. Grazie Roberto. Grazie a voi. Europost-it. I diritti dei consumatori europei entrano nell'era digitale. Buone notizie per più di 507 milioni di consumatori europei. Grazie a una nuova normativa dell'Unione Europea, i loro diritti sono rafforzati su tutto il territorio dell'Unione. La nuova direttiva tutela i vostri acquisti anche online, sia come privati che come imprese. Qualche esempio? Avete diritto a 14 giorni di tempo, rispetto a 7 fino a ieri, per cambiare idea o recedere da qualsiasi acquisto effettuato online o al di fuori di locali commerciali. Oppure non pagherete sovrattasse per l'utilizzo di carte di credito e servizi di assistenza telefonica. Sono vietate anche le caselle preselezionate su internet, ad esempio quando si acquistano biglietti aerei, e anche le offerte internet a titolo apparentemente gratuito, ma in realtà a pagamento. Per conoscere tutti i vostri nuovi diritti, andate sui siti ueurope.eu e su quello italiano del Garante del Mercato, agcm.it. Do you work in a creative place? Maybe you're a filmmaker. Or an author. Perhaps you're an artist. Or an actress. Maybe you're an app designer with the lowdown. Abbiamo parlato del digitale come una delle colonne portanti di questa nuova Europa. Poi c'è l'altra colonna che per noi è la spina dorsale, la vera spina dorsale. È un po' il nostro mantra qui all'Altra Europa, lo diciamo sempre: non ci può essere Europa se non si parte dalla cultura, nel senso alto, ma anche nel senso concreto, nel senso delle opportunità, nel senso del lavoro che la cultura può offrire. E siamo ben contenti di poter riospitare l'onorevole Silvia Costa, Presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, già membro della Commissione Cultura, è stata acclamata appunto alla presidenza della stessa Commissione. Complimenti Silvia. Grazie mille, e mi fa molto piacere perché siete fra le proprie testate che a questo tema della cultura in Europa avete sempre dato molta attenzione e ve ne sono molto riconoscente. No, cioè, ci crediamo e... ma perché ne vediamo anche quelle che sono appunto le conseguenze reali. Silvia, cosa ti aspetta? Cosa vi aspetta? Dunque, in parte non lo so, non scherzo, nel senso che questo ruolo di presidente mi è naturalmente di grande soddisfazione, ma è sicuramente una bella responsabilità, e imparerò a farlo, spero, in tempi brevi. Diciamo che intanto le competenze della Commissione Cultura, come sa sicuramente, sono abbastanza ampie, più di quanto si dica, perché c'è cultura nel senso sia del patrimonio culturale che è europeo, tangibile e intangibile, come diciamo sempre, sia tutto il tema che riguarda naturalmente la promozione delle attività culturali e della circolazione europea delle opere, degli artisti, dei professionisti, nonché del supporto alla a quella che è una grande e importantissima industria culturale italiana, che riguarda naturalmente dall'editoria al cinema, all'audiovisivo, e anche ai nuovi media, come tu dicevi prima, e anche naturalmente il design e altro. Secondo, c'è tutto il tema appunto dei media, e oggi ne abbiamo la grande questione dell'audiovisivo e della rete, no? È una nuova sfida. C'è il tema education, che è istruzione e formazione professionale, ma nel senso di tenere e migliorare i sistemi di istruzione e formazione professionali, tecnici e anche delle università europee. cioè tutto il tema della come dire gioventù, come si dice, cioè delle politiche giovanili, penso al programma Gioventù in Movimento, è un programma molto interessante di promozione anche dell'associazionismo e dell'esperienza di cittadinanza europea giovanile. Il tema della comunicazione, io su questo vorrei cercherei di fare un po' un pulso, perché a mio giudizio l'Europa viene comunicata, tranne poche eccezioni, e parlo qualcuno che è dentro una di queste eccezioni. dicevo che io sono molto dispiaciuta per il modo assunto inadeguato, episodico e spesso caricaturale con cui l'Europa viene raccontata e viene anche, come dire, presentata, certo. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Le coordinate per seguirci su Twitter e su Facebook sono Aeronet Plus R24, oppure il mio account personale Federico Taddia, radio24.it, il nostro sito da dove potrete poi riascoltare e scaricare la puntata in podcast. Siamo ancora in collegamento con Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo. Stavamo appunto parlando di questo bisogno, di questo desiderio di una nuova narrazione di questa Europa, una narrazione che sia più calda, più emozionante, più che non abbia il volto della noia, come ha detto il premier Renzi, ma abbia il volto delle possibilità, abbia il volto delle opportunità. E la cultura può essere proprio questo legante trasversale tra le varie opportunità. Silvia, forse questo è un punto da cui partire, da cui ripartire. Sì, guardi, mi scusi che io sono in una così un po' precaria, che sono in una galleria in treno, però superiamo ogni ostacolo. Dunque, io penso che ci sia bisogno proprio di costruire, in qualche modo aiutare a costruire un immaginario europeo che poi diventa anche un senso di appartenenza, di identità anche plurale che ormai ha l'Europa. Credo che il patrimonio culturale, la sua valorizzazione, la possibilità di renderlo davvero una risorsa di sviluppo sostenibile, come ormai diciamo, sia una grande e poi per noi italiani una straordinaria risorsa, come diceva appunto anche l'altro giorno il ministro Franceschini, ossigeno più che petrolio, che è una risorsa invece inesauribile. Penso che noi abbiamo grandi chance, perché dicevo adesso nelle nuove competenze dell'Unione Europea dal 2010 è molto più inserito nella strategia Europa 2020 questo tema. Adesso abbiamo la grande possibilità di vedere la strategia 2020, quindi metterlo con più forza. Fra poco dovremo approvare il primo atto che avrò da seguire, sarà il budget 2015, e quindi verificare che i programmi pluriennali che abbiamo appena attivato, di cui voi avete molto parlato, penso alla cultura dentro Horizon 2020, Europa creativa, sì, anche i programmi europei tipo come Erasmus Plus o Plus, saranno da noi verificati come è andata questo primo anno di attività e come si riesca anche a saldare il tema delle nuove competenze che servono. Pensiamo che ci sono in Europa, si contano oltre di posti non coperti perché mancano le competenze. Io sono convinta che nell'ambito della promozione dei beni culturali, della loro valorizzazione, del management culturale e delle nuove prospettive legate al digitale, c'è sicuramente, come lo dimostrano esperienze anche nel nostro paese, una grande potenzialità di nuova occupazione. E credo che anche Garanzia Giovani, che sono molto felice che oggi la grande iniziativa europea Garanzia Giovani veda l'Italia come secondo paese dopo la Francia ad aver approvato il primo avvio. Ecco, abbiamo chiesto anche a Messo Poletti che questo riguardi anche il campo della cultura e della creatività. Grazie davvero a Silvia Costa, silviacosta.it è il sito per seguirti in tutta la tua attività. Ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Alta Europa per andare a seguire altri progetti insieme. Grazie, buon lavoro Silvia. Grazie a voi, veramente grazie. Bene. va bene il digitale, va bene la rete, vanno bene le start-up, ci piacciono, le appoggiamo, va bene la cultura che passa dai progetti, dai programmi, dalle leggi. Poi c'è chi sceglie invece questa cultura di andare a toccarla per mano, anzi per piede, in questo caso al posto del digitale preferisce il rapporto umano e quindi al posto del low cost e di un volo che può collegarlo dalla sua Italia a una del qualsiasi altre capitale europee, preferisce questo viaggio, farlo a piedi. Stiamo raccontando la storia di un collega, si chiama Nicolò Girardi, giornalista della Voce del Popolo, quotidiano italiano della minoranza in Slovenia e Croazia, che ha scelto di andare a raccontare l'Europa di oggi con gli occhi dell'Europa di 100 anni fa, l'Europa della prima guerra mondiale. Ha attraversato a piedi 7 paesi, dalla Gran Bretagna all'Italia, in 61 giorni per raccontare questa Europa in 100 anni di storia. Ciao Nicolò, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Gironellastoria.com è il sito che racconta questo progetto, questa impresa che hai compiuto. Hai veramente visto, hai veramente toccato un'altra Europa? Eh beh sì, decisamente, anche perché, come dicevi tu, il viaggiare a piedi è un viaggiare diverso, un viaggiare lento che ti permette ovviamente di concentrarti in maniera maggiore, no? Sulle persone, sui luoghi, ma soprattutto sulle persone. Tu sei nato a Trieste, sei figlio di esuli istriani, vivi a Londra, se non sbaglio. Sì. Quindi sei... ma chi meglio di te forse poteva veramente ideare, portare a termine questo progetto? Perché hai scelto di raccontare in questo modo, di ricordare in questo modo la Grande Guerra? E ci son varie ragioni, diciamo così, non sono messe in una gerarchia, ma non piace ragionare in quei termini. Ce n'è una che mio bisnonno, che era istriano, aveva fatto la prima guerra mondiale con l'esercito austro-ungarico in Galizia, e io porto tra l'altro lo stesso nome e cognome del mio bisnonno, quindi in un modo o in un altro mi piaceva pensare di ricordarlo in questa maniera. Poi c'è un libro che mi è stato regalato, che è Patrick Leigh Fermor, ed è Tempo di regali, e che è uno scrittore inglese che nel 33 a 18 anni prende, va a piedi da Londra a Istanbul, e mi aveva colpito tanto. E poi in più, diciamo, l'ultima, ma non ultima, come dicono in inglese, è certamente la voglia che avevo di far qualcosa di diverso sulla Grande Guerra. Mm-hmm. Lo sai che oggi far qualcosa su un argomento, su un evento così, così grande, devi trovare l'angolo giusto per raccontarla. Siamo tutti bravi, tra virgolette, a metterci davanti a Wikipedia e a certo. Fare il copia e incolla e dire ok, ho fatto questo viaggio, ho fatto così. A me interessava veramente vedere, stare a piedi, stare in contatto con le persone, quindi ho detto proviamo, andiamo, partiamo e andiamo. E cosa cercavi e cosa hai incontrato, nel senso che cosa ha guidato nella scelta dell'itinerario? Nella scelta dell'itinerario ha guidato certamente il fronte della Prima Guerra Mondiale, quindi sì. I luoghi dove, i luoghi simbolo anche di quel conflitto. E in più cercare di trovare veramente le sentinelle di quella memoria. Questa è una battuta che rubo a Paolo Rumiz, ma è sì. Così. Uh-huh. Le persone che ci stanno regalando questa memoria, e noi oggi pensiamo alla Grande Guerra, diciamo che è stata 100 anni fa, è tanto distante, tanto lontana. In realtà ci sono delle persone che la presentificano veramente ogni giorno, e quindi la scelta è ricaduta sul fronte, su un itinerario che io ho studiato nei mesi precedenti, ovviamente per prima di partire, e allora ho detto ok, partiamo. La prima tratta ovviamente nell'Inghilterra, ho seguito un percorso che non ha quasi niente a che fare con la Prima Guerra Mondiale, perché è l'antico tracciato dei pellegrini che da Londra andavano a Canterbury per visitare la tomba di Samuel Beckett, sì. Però era funzionale per uscire da Londra e per, come dire, poi imbarcarmi da Dover per il fronte, come dall'altro, tra l'altro facevano i soldati inglesi durante la Prima Guerra Mondiale. C'è una immagine, un incontro, una, un aneddoto che secondo te è meglio di altri fotografa questo tuo cammino? Ce ne sono tanti, nel senso che ovviamente in due mesi, come hai detto, insomma in 61 giorni è tra virgolette difficile trovarne uno che abbia un peso maggiore, ma se dovessi sceglierne uno è quello che mi è successo in Valparola, al Passo Falzarego. Fondamentalmente ho passato una giornata assieme a delle persone, dei rievocatori storici che lavorano al Museo Tre Sassi, e mi hanno accolto perfettamente. Ho dormito con loro nelle baracche dell'Edelweiss, che è il villaggio Stella Alpina, e abbiamo, come dire, ricreato veramente l'atmosfera dell'epoca di 100 anni fa. Abbiamo acceso la stufa, abbiamo mangiato come si mangiava una volta, abbiamo, come dire, provato la potenza di fuoco a salve ovviamente dei fucili dell'epoca. Nel senso, l'abbiamo cercato di vivere, io l'ho cercato di vivere fino in fondo. E poi il giorno dopo uno di questi rievocatori, che è Franz Brunner Pozzi, che è un po' il simbolo di quella zona, mi ha detto: tra le centinaia di giornalisti che sono venuti e che continuano a venire a cercare di raccontare la prima guerra mondiale, tu sei l'unico per il momento che si è fermato con noi, che ha capito veramente, ha cercato di capire fino in fondo. Forse questa è la cosa che mi porterò dietro, penso di più. Un viaggio appunto a 100 anni dalla prima guerra mondiale, ma un viaggio anche nelle radici della nostra Europa, andandola a vedere, a vivere metro per metro questa Europa, camminando per 61 giorni dall'Inghilterra a Trieste. Gironellastoria.com, vi ricordo, il sito per rivivere tutto il viaggio di Nicolò. Grazie davvero Nicolò, complimenti, ci ritroveremo grazie sicuramente qui. Ciao, grazie. Buon ancora lavoro. Ciao ciao. L'altra Europa. Un agricoltore, e Silvia, una ricercatrice. Dal loro incontro, dalla loro collaborazione, la collaborazione tra tradizione e innovazione, tra culture ed esperienze diverse, tra agricoltura, amore e amore per l'ambiente, per la scienza. Da questo incontro, da questo mix, da questo matrimonio nasce lo spirito con il quale la Commissione Europea, come l'Unione Europea, sarà presente all'Expo. Proprio questa settimana, lunedì, è stato presentato il padiglione dell'Unione Europea all'interno di Expo. Il tema è coltivare insieme il futuro dell'Europa per un mondo migliore. Proprio su queste due colonne, su queste due asse che sono l'agricoltura e la ricerca scientifica, si basa la presenza dell'Unione Europea ad Expo. Di questo ne parliamo con Giancarlo Caratti, vice commissario generale per la partecipazione dell'Unione Europea a Expo. Buongiorno Caratti, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Innovazione e tradizione, sarà questa l'Unione Europea che verrà presentata, che si mostrerà al pubblico all'interno di Expo? Sì, in effetti per noi questa possibilità di essere presenti all'Expo è un'opportunità magnifica che si presenta solo ogni 10 o 20 anni. Certo. Abbiamo sostanzialmente tre obiettivi per questa Expo. Il primo obiettivo è un obiettivo per i partecipanti, per i visitatori, in particolare attraverso questa storia che verrà raccontata con tecnologie tipo Disney World, quindi sarà divertente. Sì. Cerchiamo anche di presentare un'Europa che non sia un'Europa verticistica, lontana dai cittadini, ma che in realtà si mette al livello del cittadino e parla la sua stessa lingua. per far conoscere proprio anche quali sono le potenzialità della ricerca della geotecnologia per risolvere uno dei principali problemi del mondo, che è quello di come poter nutrire un pianeta la cui popolazione sta aumentando in modo vertiginoso e si prevede che arriverà a 9 miliardi nel 2050. Certo, quindi la sostenibilità come appunto cuore pulsante di questo Expo. Esatto, allora come si fa a risolvere questo problema? Ci sono effettivamente, la ricerca ha fatto quello che poteva fare fino ad oggi, ma non è sufficiente, perché l'aumento di produttività delle colture a livello internazionale non è sufficiente a soddisfare l'aumento della domanda, soprattutto dai nuovi paesi emergenti, dove l'aumento di carne, di consumo di carne soprattutto, crea un aumento molto elevato di consumo delle colture. Certo. Quindi bisogna trovare delle soluzioni, le soluzioni ci sono, passano attraverso anche la riduzione degli sprechi alimentari, che sono da noi soprattutto nel frigorifero, nel supermarket, ma nei paesi africani sono principalmente a livello di produzione, ci sono dei virus, delle malattie, sono delle tecnologie che non vengono utilizzate in modo appropriato. Quindi in più abbiamo il problema della scarsità di risorse in termini di territorio, in termini di energia, in termini di acqua, e l'impatto del cambiamento climatico che secondo anche un recente rapporto dell'ONU avrà un impatto negativo sulla produttività delle colture. Certo, quindi insomma anche dalle sue parole si capisce che sarà una presenza anche scientifica quella dell'Unione Europea all'interno dell'Expo. Presenza quella del padiglione dell'Unione, che non andrà a scavalcare ovviamente la presenza poi dei singoli stati. Il vostro compito è anche quello di fare un po' un lavoro di coordinamento, immagino, di portare avanti quelli che sono i discorsi comuni tra i vari stati membri. Esatto, noi non vogliamo vendere i tipici prodotti dei nostri paesi, perché ci saranno 21 padiglioni di 21 stati membri che saranno presenti, quindi i prodotti francesi, tedeschi, italiani saranno messi in mostra. Noi, anche la vocazione dell'Unione Europea è quella di concentrarsi sul valore aggiunto. Certo. Quindi di vedere quello che possiamo realizzare insieme. E su un tema politicamente così importante, dove l'Europa è in prima linea, perché vorrei ricordare che noi siamo i più grandi donatori di aiuto, di aiuto in generale ai paesi in via di sviluppo, abbiamo il programma di ricerca più importante al mondo, che si chiama Horizon 2020, che ha 70 miliardi di euro su 7 anni, l'industria alimentare è la prima industria in Europa con circa 1000 miliardi di fatturato e 5 milioni di addetti, quindi per noi questa è un Expo che ha una valenza politica per tutta l'Europa. Expo 2015.org, il sito ufficiale di Expo, e c.europa.eu/JRC invece, per quanto riguarda la presenza dell'Unione Europea, del Joint Research Center, che è il servizio scientifico interno della Commissione Europea che coordinerà la partecipazione dell'Unione Europea. Caratti, prima di salutarci, c'è entusiasmo legato all'avvicinarsi di Expo? Dunque, devo dire che c'è un grandissimo entusiasmo, noi coordiniamo 20 servizi della Commissione, abbiamo da circa 200 eventi che sono in fase di organizzazione, credo che questa rappresenterà veramente una grande opportunità per Milano, per l'Italia e per l'Europa. Ok, insomma noi lo speriamo e saremo qui per raccontarlo. Grazie davvero e buon lavoro, Caratti. Allora, aspettiamo tutti a Milano, tutti gli ascoltatori a Milano. Ci saremo, anzi quasi ci siamo già. Grazie come sempre a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita, Aina, Elena, Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata, Peter Bescapè oggi alla parte tecnica e Niccolò Rossoni in assistenza per l'ultima volta. Ciao Niccolò, ci si può salutare, vero? Sì, lacrimuccia. E ci salutiamo. Radio24.it, il nostro sito, come sempre vi ricordo che da lì potete riascoltare la puntata e scaricare il podcast. Se volete contattare direttamente la nostra redazione, l'indirizzo è l'altraeuropa@radio24.it. Adesso il GR dall'altra parte del vetro, c'è già Davide Paolini, il gastronauta, pronto per venire al microfono e accompagnarvi anche oggi in una magica avventura legata al cibo. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.